TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza nazionale per le alluvioni in regione, Protezione Civile Italiana mobilitata. Risontino, la prima a contare i danni, questo pomeriggio a Palmanova, riunione del Comitato Regionale per le Emergenze. Stretta al telemarketing telefonico, in vigore da oggi lo stop per le finte chiamate da numeri nazionali, ma provenienti in realtà dall'estero. Ospedale di Pordenone, collaudi terminati e opera consegnata all'azienda sanitaria. A giorni i primi trasferimenti termineranno in estate. Parcheggi a Trieste nell'area ex Silos fino al 6 gennaio. 400 posti auto gratuiti con commercio attrezza l'area di proprietà di Copalleanza 3.0. Aumentano le richieste di aiuto a Voce Donna di Pordenone, già 324 quest'anno, 19 persone inserite in una delle case rifugio. 12:31 minuti, buongiorno da Andrei Marušić e Rita Micoli. Apriamo anche questa edizione del giornale radio dalle aree più colpite dalle violentissime precipitazioni di due notti fa, dalle alluvioni e dalla frana che ha causato due morti a Brazzano di Cormons. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dichiarato l'emergenza nazionale che consente il supporto dell'intero sistema italiano di protezione civile nelle zone colpite. Alle 15:30 oggi a Palmanova sarà il Comitato Regionale per le Emergenze a fare il punto sulla situazione e sui primi interventi da effettuare sul territorio. È il secondo giorno di pulizia a Versa, dove oltre 300 abitanti si sono ritrovati l'altro ieri con i piani terra e i giardini delle case completamente allagati. Anche oggi una giornata di sole che favorisce le operazioni in attesa di un peggioramento del tempo nei prossimi giorni. Al momento la frazione di Romanza di Sonzo resta zona rossa, vi possono accedere solo le persone autorizzate, non quindi quei tanti cittadini che pure hanno manifestato la volontà di aiutare gli alluvionati. Oggi sono arrivati 85 volontari e volontarie di 22 squadre diverse della Protezione Civile, di cui tre provenienti dal Veneto. Altre sempre dal Veneto sono attese nelle prossime ore. La priorità, oltre alla pulizia e il ripristino delle utenze, in particolare dell'elettricità e del gas, per permettere alle persone di tornare a vivere nelle loro abitazioni. Lunedì sera il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, ha firmato lo stato di emergenza nazionale che permette al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile di mobilitarsi per tutto ciò che serve per far fronte alle necessità. Altra urgenza in questo momento è lo spostamento dei rifiuti che sono accatastati al di fuori delle case, in particolare mobili ed elettrodomestici fuori uso. Attivata anche l'azienda sanitaria Asugi per il trasferimento delle molte carcasse di animali ritrovate a Versa. Questo pomeriggio si terrà una nuova riunione del Comitato per l'Emergenza Regionale alla Protezione Civile di Palmanova, in cui si valuteranno i nuovi scenari con un occhio anche alla situazione di Brazzano, dove la frana tiene lontane dalle case quasi 90 persone per ragioni di sicurezza. Versa, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Cambiamo argomento. Da oggi attivo il secondo intervento dell'Agicom, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, contro il telemarketing aggressivo. Per le associazioni dei consumatori un nuovo passo contro le telefonate moleste, che però ancora non basta. Lo stop dell'Agicom riguarderà le chiamate commerciali provenienti dai finti numeri mobili italiani. Lo scorso agosto era scattato invece quello delle finte numerazioni fisse italiane. Da oggi dunque le chiamate provenienti dall'estero che utilizzano una numerazione mobile italiana subiranno una verifica tecnica immediata che consentirà di capire se quel numero esiste veramente, a chi è assegnato e dove è collocato. I numeri falsificati saranno bloccati in automatico. Si punta così a limitare il fenomeno chiamato spoofing, un tentativo di raggiro che consiste nella manipolazione dell'informazione sull'identità del chiamante per impedirne l'identificazione e la richiamabilità. Plaudono alle nuove regole le associazioni dei consumatori che le hanno sollecitate sulla scorta del crescente numero di chiamate indesiderate segnalate dai cittadini. Per il presidente del Movimento Difesa del Cittadino Englaro però ancora non basta, vanno considerate, spiega, le contromisure che saranno adottate dai call center illegali che utilizzano tecnologie sempre più sofisticate per aggirare blocchi e divieti e colpire gli utenti scarpendo i loro dati personali. Da un monitoraggio dell'associazione nell'ultimo anno, su circa 2.000 intervistati a Campione in regione, oltre il 23% ha riferito di chiamate di telemarketing aumentate e solo meno di 4 consumatori su 10 rilevano un miglioramento con la stretta dell'authority. Il 40% delle chiamate ha portato alla sottoscrizione di nuovi contratti per forniture di luce e gas, costati un esborso tra il 15 e il 25% in più in bolletta. Preoccupa anche l'aumento di chiamate per proposte di investimenti finanziari, il 28% rileva Englaro, che invita a non abbassare la guardia ed auspica un intervento normativo e tecnologico coordinato per garantire un'effettiva tutela degli utenti. Sulla stessa linea la vicepresidente regionale di Federconsumatori Cucu, per la quale serve soprattutto una stretta sulle modalità per ottenere il consenso dagli utenti. Le chiamate indesiderate non scompariranno, avverte anche Venuti di Consumatori Attivi, che reputa fondamentale istituire una banca dati nazionale sulle società di telemarketing per monitorare e contingentare le chiamate all'utente finale. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. E all'ospedale di Pordenone oggi è il giorno della fine dei lavori e della consegna dell'opera. I primi trasferimenti di reparti cominceranno tra una decina di giorni per concludersi nell'estate del prossimo anno. È il giorno della consegna del nuovo ospedale di Pordenone. Terminati i collaudi, l'impresa costruttrice ha formalizzato il passaggio dell'opera all'azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Passaggio fondamentale per poter avviare i primi trasferimenti dei reparti dalla vecchia alla nuova struttura di via Montereale. La data che segnerà l'apertura al pubblico è confermata il 29 novembre con l'ingresso delle medicine. L'11 dicembre sarà poi la volta di pronto soccorso, radiologia d'urgenza e medicina d'urgenza. Segnato da polemiche, ultima quella relativa al trasloco dell'ostetricia, il nuovo ospedale è costato 276 milioni di euro, di cui 56 milioni di attrezzaggio, si presenta come una struttura all'avanguardia, con 475 posti letto, 160 ambulatori, 11 sale operatorie, una serie di dotazioni tecnologiche e di risparmio energetico. A inizio 2026 saranno spostate cardiologia, neurologia e terapia intensiva. Tra marzo e aprile le chirurgie con le sale operatorie. Il piano trasferimenti dovrebbe concludersi entro l'estate. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. 400 parcheggi in più gratuiti a Trieste per il periodo delle festività natalizie. Confcommercio ha allestito l'area messa a disposizione da Coop Alleanza 3.0. A Trieste si riapre la grande area fra il Silos e il Porto Vecchio, quella dove era stato posizionato il Cirque du Soleil e, come nel periodo Barcolana, torna ad essere un grande parcheggio. Inaugurazione stamattina, sarà a disposizione gratuitamente di triestini e di chi arriva in città da oggi fino al 6 gennaio. L'operazione ha coinvolto direttamente Confcommercio, che con una spesa di 40.000 euro ha attrezzato l'area, e Coop Alleanza 3.0, proprietaria dell'immenso spazio e del silos accanto. In una città che soffre di mancanza di parcheggi, sarà un'importante boccata d'ossigeno nel lungo periodo natalizio, a beneficio dunque del commercio cittadino e non solo. Intanto Comune, Alleanza 3.0 e Confcommercio ragionano sul futuro di quest'area. Intenzione di Comune e Confcommercio è di destinarla permanentemente a parcheggio, in quel caso a pagamento, ma i vari soggetti interessati ad acquistarla alla fine si sono allontanati senza concretizzare alcuna intenzione. In mancanza di acquirenti, i responsabili della cooperativa non escludono un accordo diretto con Confcommercio, ipotesi su cui al momento si sta lavorando e che potrebbe maturare l'anno prossimo. Trieste, Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. In mattinata un blackout elettrico a macchia di leopardo ha interessato il comune di Muggia in provincia di Trieste. Si sono verificati alcuni disservizi. Le lezioni nelle scuole Sauro, De Amicis e Borgo Lauro sono state sospese per motivi di sicurezza. Gli studenti sono stati mandati a casa per poi essere richiamati con il rapido rientro del guasto. Al momento sono ancora poco chiare le cause che hanno generato l'interruzione di fornitura elettrica. Le 12.39, uno sguardo al meteo, cielo sereno su pianura e costa, da poco nuvoloso a variabile in montagna, le temperature registrate alle 11. Trieste 9 gradi, Gorizia 8 gradi e 5 decimi, Udine e Pordenone 8 gradi, Tolmezzo 3, Forni di Sopra 1 grado e 5 decimi, Piancavallo 0 gradi, Tarvisio meno meno mezzo grado, Sappada meno un grado e cinque decimi, Monte Zoncolan meno due gradi, Monte Lussari meno quattro, a Grado 8 e 5 decimi, a Lignano invece 8 gradi. Le previsioni dell'ARPA: nel pomeriggio avremo cielo variabile per velature. Domani cielo in prevalenza nuvoloso con possibili piogge sparse, in genere deboli o al più moderate sulle zone orientali. Quota neve a 1000-1200 metri, ma non si esclude qualche debole nevicata fino a fondovalle nel Tarvisiano. Cittadini, tecnologia e partecipazione, ricostruire il dialogo nell'era digitale è il tema del convegno organizzato da Ensi e la Udine nella sede della Camera di Commercio dedicato al progetto di Hub Europeo per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione e delle imprese. Ne abbiamo parlato con Diego Antonini, amministratore unico di Ensi. In che modo si sta lavorando per avvicinare il cittadino alla pubblica amministrazione digitale? Beh, sicuramente uno dei modi che stiamo utilizzando, su cui stiamo lavorando, è utilizzare i mezzi di stampa, quindi anche col vostro aiuto per cercare di divulgare il più possibile quello che facciamo. L'obiettivo che noi ci poniamo è quello di essere sempre più vicini a quelle che sono le esigenze dei nostri cittadini. Per ovvi motivi non è che Insiel o la Regione può stabilire un punto di contatto per tutti i cittadini per quello che riguarda i progetti digitali, e quindi noi abbiamo un bisogno assoluto di lavorare in stretta connessione e collaborazione con gli enti territoriali e soprattutto i comuni. Quindi noi chiediamo ai comuni di fare un po' da filtro su tutte le richieste o necessità dei propri cittadini, e attraverso tutte le interlocuzioni che noi abbiamo con i comuni, cosa che adesso abbiamo messo in pratica proprio con i progetti EDHPI di cui parliamo oggi, essere in grado quindi di mettere in pratica e rendere disponibile delle applicazioni che facilitino o rendano la vita migliore dei nostri cittadini. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Villa Russitz a Capriva ha ospitato il premio della fedeltà al lavoro organizzato dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia, un premio per celebrare l'impegno e la qualità del lavoro delle imprese e dei lavoratori del territorio. Il presidente Paoletti ha ricordato come, nonostante un periodo complesso, la regione continui a crescere grazie alla laboriosità delle comunità locali e alle nuove norme a sostegno delle imprese e dei giovani. Sono stati 69 i premiati tra dipendenti, imprese, realtà giovanili e femminili. Tra i premi speciali per le ricadute di grande valenza, i premi speciali per le ricadute di grande valenza per il territorio. Tra questi è stato premiato Francesco Mario Granbassi per aver guidato con visione e competenza l'internazionalizzazione del Teatro Rossetti, Loreto Pali, proprietario del Castello di Spessa, e il cavaliere Enrico Samer come figura di riferimento per la logistica, come attento sostenitore della comunità e delle giovani generazioni. Due appuntamenti a Pordenone per parlare di prevenzione oncologica al femminile ed al maschile organizzati dalla LILT provinciale. Oggi e domani alle 16.45 a Palazzo Ellero specialisti della regione discuteranno di prevenzione e screening. Sono 1.400 i casi di tumore al seno annualmente solo nella nostra regione, ma con una percentuale di guaribilità del 90%. Cresce anche la casistica dei casi di tumore alla prostata nell'uomo. Abbiamo sentito il presidente del la LILT Pordenone, il professor Antonio Carbone, sulla Due Giorni Pordenonese e sui dati dell'incidenza delle patologie. Si partirà dalla prevenzione primaria e secondaria, i tumori del seno e della prostata. Prevenzione primaria, il cui risultato atteso, le campagne di prevenzione primaria hanno come risultato atteso la riduzione dell'incidenza, e riportarlo anche al 50% dei tumori diagnosticati. Quella secondaria, cioè lo screening, le campagne di screening hanno come obiettivo la riduzione dello stadio in cui il tumore è diagnosticato. Questo qui è una garanzia per il successo della cura. Nelle due giornate gli specialisti si raggrupperanno e in forma interdisciplinare discuteranno sul percorso concordato che garantisce il risultato. Qual è l'incidenza dei casi del tumore al femminile nella nostra regione? Noi abbiamo un'alta incidenza in regione di tumori nelle donne, e sono prevalentemente tumori del seno, dei polmoni e anche della pelle. L'incidenza di questi tumori nelle donne è superiore a quello che si ha nelle altre regioni del nord Italia e del centro Italia, e questo ci richiede un'organizzazione puntuale per far fronte a questa aumentata incidenza. E per quanto riguarda il lato maschile? La situazione è meno preoccupante perché l'incidenza è inferiore rispetto a quelle che si ha nel resto d'Italia. Parliamo di tumore alla prostata e tumore al polmone. Mentre c'è stato un calo dei tumori polmonari nell'uomo, c'è stato invece un incremento della diagnosi di tumore della prostata. E questo qui fa sì che la nostra attenzione sia più nel campo urologico nell'uomo. Nella settimana mondiale per la consapevolezza sulla resistenza antimicrobica, l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia un appello per un uso più responsabile degli antibiotici. Il loro uso in Italia supera del 10% la media europea. Se n'è parlato oggi a Buongiorno Regione. L'uso massiccio di antibiotici ha rimodellato il paesaggio genetico dei batteri, creando ceppi resistenti che oggi preoccupano la sanità globale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, un'infezione su 6 è ormai resistente agli antibiotici. Federica Mantovani, responsabile infrastruttura ricerca dell'area Science Park. Annualmente si registrano circa 35.000 decessi legati all'antibiotico resistenza. Di questi 12.000 sono in Italia. Ora, si potrebbe pensare che questo sia dovuto a una densità di popolazione più alta rispetto a zone del nord Europa che sono meno densamente popolate, o al fatto che abbiamo evidentemente un aumento della temperatura del clima che magari può rendere più semplice proliferare per questo tipo di microorganismi. L'incidenza dell'antibiotico resistenza sia da collegare in prima battuta in modo più evidente all'incidenza delle prescrizioni di antibiotici, cioè più si prescrivono antibiotici più il fenomeno dell'antibiotico resistenza si manifesta. Agire ora, proteggere il nostro presente, assicurare il nostro futuro. Il tema della settimana mondiale per la consapevolezza sulla resistenza antimicrobica, promossa dall'OMS, che sottolinea che c'è una grave mancanza di innovazione nel settore della ricerca farmacologica. Noi avevamo nella pipeline globale dei trial clinici sull'antibiotico resistenza 97 composti nel 2023. Nel 2025 sono registrati 90 composti, quindi c'è una diminuzione del numero. Di questi 50 sono più simili agli antibiotici già in uso e soltanto 40 utilizzano delle strategie innovative o degli antibiotici nuovi. All'interno di questi 40, soltanto 15 sono considerati altamente innovativi. Trieste, Vaciuti, GR Friuli Venezia Giulia. E sono in aumento le richieste di aiuto al centro antiviolenza di Pordenone, Voce Donna. Secondo gli operatori, a crescere non sono i casi di violenza, ma la consapevolezza di chi la subisce, che oggi sa che può cercare assistenza. Nel 2025 sono state 324 le persone che hanno chiesto aiuto a Voce Donna di Pordenone. Di queste 19 sono state inserite in una delle case rifugio. Numeri in aumento, spiega Anna Campanile, operatrice e counselor del CAV, non perché la violenza sia aumentata, ma per una accresciuta consapevolezza. A confermarlo è anche la presidente di Voce Donna, Silvia Brunetta. La situazione un po' è come tutti gli altri anni, un po' di incremento, ma perché riteniamo se ne parla molto di più. Noi sappiamo che è un fenomeno molto sottaciuto in questi anni, adesso forse se ne parla molto di più, c'è più interessamento, c'è più coinvolgimento e speriamo sempre più donne abbiano il coraggio di contattarci e di poter uscire da situazioni disagiate per loro, ma anche per tutti i minori che assistono a questo fenomeno dei maltrattamenti. La divulgazione e la sensibilizzazione favoriscono dunque la consapevolezza ed è questo l'obiettivo di un progetto avviato da Voce Donna nel 2024 con la collaborazione di Ascom Confcommercio e delle categorie aderenti. All'interno del progetto si inserisce ora l'iniziativa di un percorso formativo di 3 ore rivolto a una trentina di collaboratori del Best Western Plus Park Hotel di Pordenone. Per promuovere la cultura del rispetto, riconoscere i segnali di violenza e imparare a fornire un primo ascolto alle persone che ne sono vittime. Il direttore Francesco De Felice. Abbiamo organizzato un corso di formazione per tutti i nostri collaboratori, che sono l'80% donne, affinché ci sia una, come dire, consapevolezza di questo problema e ci sia anche un'ulteriore divulgazione all'interno delle loro cerchie, famiglie, conoscenti. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed è stato presentato il programma del Natale di Pordenone 320 tra il centro storico e i quartieri, con il coinvolgimento di più di 90 associazioni del territorio. Villaggio natalizio in piazza 20 settembre, con casette enogastronomiche rinnovate e piste di ghiaccio dal 28 novembre al 6 gennaio, al quale si aggiunge un'area ludico-didattica per i bambini dai 4 ai 10 anni. Nei fine settimana, dalle 15 alle 20, il trenino delle feste ATAP con le guide turistiche FVG. Per lo shopping, la novità dell'apertura dei negozi lunedì 23 dicembre fino alle 22. Lo spettacolo dei giochi di luce si estenderà ad altri palazzi e alle strade della città. Quest'anno i quartieri saranno più coinvolti e protagonisti, con alberi natalizi e presepi e più di 50 eventi. Oltre 15 le esposizioni. Nell'ambito dei progetti inseriti nel dossier di candidatura Pordenone 2027 spicca la rassegna fotografica sul Leggere. In Galleria Bertoia saranno esposte le opere di Robert Duhanot. Al Museo d'Arte Palazzo Richieri, ai mercati culturali, scatti di artisti contemporanei. Negli altri musei civici in programma mostre temporanee. Per la musica, il 28 novembre Powerful Gospel Choral, il 1 dicembre al Verdi Ceghedaccio Symphony Orchestra FVG. A Capodanno invece, in piazza 20 settembre, Steve Barnes, chitarrista di Vasco Rossi. Epifania tra Falò, Fiaccolate e la visita della Befana nei quartieri e i Panevindi Pordenone. Alcuni spettacoli. Il teatro comico è la prima delle 16 commedie scritte da Carlo Goldoni tra il 1750 e il 1751. Valentina Diana, poetessa e autrice di narrativa e teatro, l'ha riscritta dandole una nuova vita per la compagnia Invisibile Collettivo. Questa sera al Teatro Verdi di Magnago alle 20.45. Nelle serate successive l'auditorium alla Fratta di San Daniele del Friuli, al Palazzetto dello Sport di Zoppola e al Teatro Italia di Pontebba, sempre alla stessa ora. E a San Vito al Tagliamento, un auditorium centro civico gremito ospiterà una serata con Ale e Franz, il meglio di oltre 30 anni di carriera del celebre duo comico, alle 20.45, tutto esaurito, già in prevendita. E al centro di aggregazione giovanile in Viale dello Sport a Fontana Fredda, alle 21 va in scena Belli e Taggati, uno spettacolo che affronta la relazione genitori-figli digitale. Il format offre una chiave di lettura sulle sfide la crescita nell'era degli schermi e dei social. Uno spettacolo pensato per tutta la cittadinanza che unisce intrattenimento e contenuti formativi. Le 12.52, siamo allo sport. Vittoria ieri sera della Pallacanestro Trieste a Istanbul nella Basketball Champions League, 79-80 sul Galatasaray, successo esterno che vale prestigio e fiducia. A decidere Markel Brown con una penetrazione vincente a 6 secondi dal termine, coronando una gara sempre punto a punto. 39 pari all'intervallo, massimo vantaggio turco sul più 6 nel terzo quarto, subito ricucito da Trieste. Ottima la prova di Toscano Anderson e soprattutto di Sissoko, miglior marcatore con 21 punti e 7 rimbalzi. Buono l'impatto anche dalla panchina, con energia e difesa nei momenti chiave. Presente sugli spalti il presidente Matiasic, Trieste è già certa del terzo posto nel girone. Prossimo appuntamento europeo il 17 dicembre contro Würzburg. Domenica invece super sfida di campionato al Palarubini contro Milano. La ginnasta Antea Sisio della società Iace Ginnastica, che da più di 2 anni si allena presso il Centro Tecnico dell'Artistica 81 di Trieste, farà parte delle atlete titolari della nazionale che affronterà i mondiali junior in programma dal 20 al 24 novembre a Manila. Venerdì sono previste le qualificazioni femminili, sabato le finali all around, domenica e lunedì le finali di specialità. Siamo così ai saluti. Alla parte tecnica e in regia hanno collaborato Bruno Montevecchi e Walter Vidonis. In redazione invece ha collaborato Laura Sarasini. Da Rita Miccoli e Andrei Marusic è tutto. Prossima edizione del nostro giornale radio alle 15. Un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.